La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon inizio di settimana, questo lunedì 21 di dicembre, sono le 16.30, primi 48 secondi in diretta agli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto della versione di Oscar, in diretta o in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, in questi giorni stiamo soprattutto, non solo io, ma insomma tutti i colleghi di Radio 24, Deborah Rosciani, Sebastiano Barisoni, chi si occupa più di economia e finanza, soprattutto rispondendo alle vostre domande su che cosa ci sia o meno da temere con questo o quel prodotto, questo o quel conto, questa o quella banca. Quindi se volete, oltre che per suggerire trasmissioni o critiche o temi, siamo qui anche per questo. E ricordo, per intervenire invece nella puntata, numero di telefono 800 24 00 24, e gli sms al 349 238 6666. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di un gesto di coraggio civile, o se volete anche la premessa di questo gesto di coraggio civile è non poterne più. Di che cosa? Non poterne più della sopraffazione, del racket e della criminalità, nella fattispecie della camorra. Il fatto avviene nel pieno centro storico di Napoli, in cui un parrucchiere decide di non poterne più, di non piegarsi alla richiesta del pizzo. E di fronte a questo, quindi, valutando il da farsi, decide di rivolgersi alle autorità e di dichiarare la richiesta e di mettere quindi le forze dello Stato nell'ordine, nelle condizioni di poter intervenire, e poi di sperimentare che naturalmente le conseguenze di questo suo gesto sono pesanti. Naturalmente l'avrà immaginato prima, l'avrà pensato e considerato prima di assumere la decisione che ha assunto. Ripeto, stiamo parlando di una vicenda che avviene nel pieno centro storico di Napoli, alle spalle di Santa Maria la Nova, in largo Eceomo, quindi stiamo parlando quartieri spagnoli e così via. Da allora, come immaginasse a sua volta il parrucchiere, la vita professionale, la vita di ogni giorno cambia drasticamente, perché ovviamente bisogna fronteggiare la possibilità della ritorsione da parte di una rete criminale. Allora, prendiamo questa vicenda di cui si è occupato il Mattino, il quotidiano di Napoli, e l'ha portata all'attenzione delle cronache nazionali, per riflettere tutti insieme su casi come questi. È da una parte giusto chiedere a tutti i cittadini italiani, a chi esercita il mestiere dell'autoimprenditore, come a chiunque, imprese piccole, medie, grandi, a chi comunque viene a conoscenza di atti di sopraffazione, di estorsione, di rendersi cittadini attivi nel segnalare alle autorità queste vicende e queste richieste di cui si è fatti oggetto. La domanda diventa, e fin dai tempi di Libero Grassi, lo ricordate? L'imprenditore palermitano lasciato solo perché fu tra i primissimi, stiamo parlando degli anni 80, a denunciare le richieste di pizzo da cui era fatto oggetto dalla mafia. La sua era un'impresa in difficoltà e che finì poi ucciso e solo, e nel suo nome poi è nato storicamente in Sicilia il movimento anti-racket. Però da allora in poi è diventato un luogo comune chiedere, ripeto, giustamente a tutti di farsi parte attiva. Però la domanda è, ma dopo decenni in cui lo chiediamo e lo ripetiamo, abbiamo tra virgolette imparato la lezione, chiuse virgolette, istituzionale di che come poi si mette in condizione di chi si rende responsabile di questo gesto di cittadinanza attiva, di metterlo in condizione di andare avanti nella propria vita economica, privata, pubblica, professionale? Ecco, questa è la domanda. Oltre ai particolari della vicenda che ci ha spinto oggi a chiamare in trasmissione gli ospiti, a cominciare dal protagonista di questa vicenda, che si chiama Salvatore Castelluccio, e fa appunto il parrucchiere, e poi dovremo avere anche l'assessore al lavoro e alle attività produttive del comune di Napoli. Mentre in diretta noi li stiamo chiamando, io intanto vi riepilogo i particolari, alcuni particolari della vicenda, perché ovviamente stanno telefonando dalla regia con i nostri due ospiti. Ecco, Salvatore Castelluccio, il protagonista di questa vicenda, vi ho detto, ha una bottega in pieno centro a Napoli, a metà strada tra Forcella e Quartieri Spagnoli, ha 44 anni e ovviamente pratica dei prezzi popolari, ci informa Giovanni Bianconi del Corriere della Sera, e quindi taglio e messa in piega 15 euro, con i colpi di sole 34 euro. E come nasce questa vicenda? Nasce nei primi giorni di agosto, dopo che il negozio appunto di Salvatore Castelluccio, Pianeta Donna, si chiama così, vede comparire di fronte alla sua vetrina cinque persone a bordo di uno scooter, e queste cinque persone gli dicono: sabato ci devi portare, sabato prossimo, 2000 euro. Questo viene detto a Salvatore mentre era fuori a fumarsi una sigaretta. Allora, i due che gli rivolgono la parola rispondono, uno dei due, o meglio, è Raffaele Lelluccio. Chi è questo Raffaele Lelluccio Trongone? È il boss della zona, della locale organizzazione camorristica che detiene il controllo di quella parte della città. E a loro il parrucchiere dice: non ce l'ho questi soldi. E loro gli rispondono: ovviamente, questo è un problema tuo. Prepara i soldi e sabato veniamo. Allora, il problema è che Salvatore Castelluccio non è nuovo a ricevere queste richieste, bensì le richieste gli venivano rivolte da molti anni, solo che erano, per così dire, richieste più contenute. Come racconterà poi alle forze dell'ordine, 200-300 euro con la scusa delle festività di Natale, Pasqua, Ferragosto, ed erano giustificate, come sempre capita con queste estorsioni dei racket criminali, erano motivate con la richiesta di un contributo per gli aiuti ai familiari dei detenuti, per pagare gli avvocati anche ai detenuti. Ecco, questa era la ragione in passato. Quando poi arriva questa richiesta di fronte ai 2000 euro, a quel punto Salvatore Castelluccio decide che non ce la fa più. E cosa fa Salvatore Castelluccio? Il giorno dopo si presenta in questura e alla sezione antiracket della Questura di Napoli gli dicono: bene, quando vengono sabato noi saremo lì. Quindi una poliziotta arriva la prima mattina, si finge una cliente, insieme ad altre colleghe, ovviamente per non destare sospetti. L'emissario per la raccolta del 2000 euro di pizzo richiesto arriva un po' più tardi, sempre alla presenza, anche in questo caso, del Trongone, cioè del boss della zona che controllava la scena a distanza. E quando gli chiedono i soldi, Salvatore Castelluccio, lui risponde: non li ho, non so proprio a chi chiederli. E a questo punto propone Castelluccio: quindi non ve li do. E loro invece dicono: vabbè, ti diamo al massimo uno sconto di 500 euro, ti proponiamo. E però da settembre, questa scena ve l'ho detto, viene ad agosto, dal mese prossimo, quindi noi ci sediamo e d'ora in poi ci devi dare un contributo più elevato al mese. A quel punto, rientrato nel negozio, il parrucchiere allerta la poliziotta, e a quel punto la poliziotta si attiva, avendo visto la scena, chiama rinforzi per il pomeriggio. Nel pomeriggio, quando gli emissari tornano alle 17, scattano gli arresti in flagranza di reato per Luigi Criscuolo, 23 anni, e un complice. Però il boss Trongone riesce a dileguarsi sul motorino. Qualche giorno dopo il Trongone viene arrestato per un'altra vicenda, e in quell'occasione poi successivamente gli contestano anche l'estorsione al titolare del negozio di parrucchiere, del negozio di Salvatore Castelluccio. Mentre Luigi Criscuolo, il primo arrestato, coinvolto in una faida tra giovanissimi, appunto, che si combattono a Forcella a colpi di omicidi e ferimenti a Napoli, di cui la stampa nazionale non si occupa. Questo è il punto che io torno sempre a sottolineare. In carcere si lascia anche scappare delle frasi di minaccia nei confronti di Salvatore, e quindi verso Salvatore viene a quel punto adottato un programma fisso di sorveglianza nel suo negozio. Fatto sta che però a questo punto, di fronte al programma di protezione, Salvatore Castelluccio dichiara anche al prefetto di Napoli, che va a fare una messa in piega, il prefetto di Napoli si chiama Gerardo Pantalone, che va per solidarietà a fare una messa in piega nel negozio, però Salvatore Castelluccio dice la realtà è che viene il 50% dei clienti in meno, il mio giro d'affari ha avuto una diminuzione brutale. Allora, di fronte a questo e di fronte agli effetti, come vedete, dell'apparato di tutela di chi denuncia il racket, qualche dubbio ovviamente viene. Allora, Salvatore Castelluccio, adesso che abbiamo sentito tre volte stamattina, non risponde al telefono, anzi ha detto in regia che ha avuto un impegno improvviso. Io spero che non si senta troppo esposto, perché stamattina avevamo concordato con lui questa trasmissione, quindi l'ultima cosa che immaginavo o volevo è che dopo avesse compiuto questo gesto pensasse che magari raccontare anche in radio fosse una sovraesposizione. Però intanto abbiamo con noi Enrico Panini, che è l'assessore al lavoro e alle attività produttive del Comune di Napoli. Buongiorno e grazie di essere ai nostri microfoni. Buongiorno a lei. Posso chiederle, assessore, questa vicenda in particolare, poi estendiamo un secondo la riflessione di quello che potete fare come comune di fronte a questo fenomeno a Napoli, ma questa vicenda in particolare, per come l'abbiamo raccontata, per chi non la conosceva e non aveva letto sulla stampa locale la vicenda, a voi della Giunta e a lei in particolare, che riflessione induce? Ma guardi, purtroppo non è l'unica esperienza di questo tipo con la quale abbiamo dovuto fare i conti, e dentro questa vicenda c'è un Salvatore Castelluccio eroe normale, perché ha fatto una cosa che tutti dovremmo fare quando ci troviamo in quelle condizioni, ma visto che non tutti lo facciamo, non a caso ho usato il termine eroe, ma non abbiamo bisogno di eroi, abbiamo bisogno di persone normali. Dall'altro un fenomeno, quello dell'usura, davvero in crescita, e qui bisognerebbe proprio fare il punto per mettere insieme in un intervento interistituzionale tutte le risorse possibili per non lasciare sole queste persone e combattere anche le origini dell'usura, che in buona parte io credo possono essere contrastate. Dall'altro, purtroppo, quello che Salvatore denuncia, cioè una riduzione di presenza nel suo negozio, è una cosa che abbiamo riscontrato anche in altri casi, e in questo frangente l'esempio del prefetto di Napoli è davvero straordinario e importante, è una cosa che noi stiamo cercando col passaparola di allargare, perché a fronte di alcuni fatti dove prende il sopravvento la paura della persona, oddio che cosa mi può succedere, bisogna che scatti una rete etica dove si decide che per una volta si va da da quel parrucchiere e non dal proprio abituale parrucchiere, per testimoniare concretamente che non si può denunciare l'usura e andare contemporaneamente in crisi economica. Di fronte al fatto che storicamente, e io devo dire anche con una certa recrudescenza, perché secondo me, ripeto, la stampa nazionale non segue quasi per niente quello che avviene a Napoli dal punto di vista della ripresa e della manifestazione violenta dei fenomeni di controllo criminale in città e nella grande Napoli, non solo a Napoli, però in particolare io collaboro con Il Mattino, quindi gioco forza, tutti i giorni devo vedere cosa succede in città. A me pare che sia un fenomeno a livello nazionale molto sottovalutato. Io capisco che la stampa nazionale debba dedicare a ogni avvenimento di omicidi eccetera negli Stati Uniti paginate intere, giustissimo, lì c'è il problema delle armi libere accessibili a tutti, ma che però noi abbiamo da qualche anno messo, non dico la sordina, ma una disattenzione generale alla gravità di fenomeni che si esprimono attraverso sparatorie pressoché quotidiane, con spesso un morto che ci scappa a Napoli. Secondo me c'è una gravissima disattenzione a livello nazionale. Posso chiedere a lei, assessore al lavoro Comune di Napoli, qual è secondo lei il vero motivo per cui c'è questa distrazione di massa? Guardi, credo che ci siano più ragioni, più motivi, forse perché si ritiene che ci siano altri temi più impellenti, dalla crisi economica alle tante questioni che travagliano il nostro paese, forse perché si pensa che alcuni fenomeni in un qualche modo rientrino in una sorta di ordinarietà. Devo dirle, non solo facciamo in questo modo un torto all'informazione, l'informazione sana e corretta, perché poi insieme a questi fenomeni c'è contemporaneamente una città che reagisce. Lei ricorderà che come persona attenta e curiosa ai fatti, oltre che come prestigioso collaboratore del Mattino, la manifestazione che c'è stata un paio di settimane fa, dove migliaia di persone hanno testimoniato fattivamente, dando seguito ad altre manifestazioni, il contrasto ad ogni tipo di violenza organizzata, di criminalità organizzata. Abbiamo la riscrittura degli equilibri in città, c'è una generazione di giovani che emerge in modo violentissimo e da questo visto il regolamento dei conti e i nuovi equilibri si stanno svolgendo di volta in volta. Lei quando parla di riequilibrio, stiamo parlando di riequilibrio tra le famiglie criminali che esercitano il controllo territoriale. Certo, esattamente così. Devo dirle che oltre ad avere una informazione anche sul versante nazionale più attenta, occorrerebbe però anche un'azione per rimuovere, più generale, per rimuovere quali sono alcune di queste cause. Allora io provo a dirne due, tre, sapendo che dico assolute banalità, ma che diventano drammatiche nel momento in cui non trovo una risposta. Primo tema, il lavoro, nel senso che abbiamo una generazione di ragazze e di ragazzi che non trova lavoro, che fa lavoro nero e in alcuni casi la criminalità organizzata diventa una fonte allettante perché dà un qualche soldo a fine mese o un'altra forma di aiuto. Secondo, scuola. Gerardo Bufalino dice la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri di scuola elementare, è vero. Occorre un contrasto in modo particolare alla tanta evasione scolastica e il tanto abbandono scolastico. Terza questione, le politiche di welfare, soprattutto laddove i redditi sono redditi bassi. Non sono, come lei sa, per l'attenzione che mette nel seguire le cose, parole generiche. Sono parole che rivendicano però alcune azioni coerenti. Nessuno chiede di ritornare alle forme del passato con gli aiuti a pioggia, ma coraggiosamente di mettere in campo alcune iniziative, perché se alla denuncia non segue anche l'azione, non possiamo collocarci fra coloro che guardano rassegnati l'evolversi dei fatti. Io le faccio una domanda, assessore, la risposta me la dà tra un minuto, perché poi abbiamo l'interruzione per l'informazione stradale e torniamo dopo un minuto. Ma non c'è anche il rischio di fronte all'indifferenza nazionale? Io non sto parlando dell'indifferenza dello Stato, cioè io non sto parlando della quantità di risorse impiegate, cioè non credo affatto che sia così, parlando con i terminali delle forze dell'ordine dello Stato impegnato, ovviamente tutti si potrebbe fare meglio, ma noi siamo impegnati al massimo delle nostre forze. Idem dicono i magistrati della procura locale, idem dice anche il prefetto Santi Giuffre, che è il commissario per iniziative anti-racket e anti-usura, che semmai lamenta una penuria di risorse per le sue iniziative. Però la domanda che le faccio, da amministratore della città, di fronte ai grandi problemi della città, non c'è il rischio che però ci sia una parte crescente dei giovani napoletani, oltre ai fenomeni economici e sociali che dice lei, che torni in questi anni, di fronte alla durezza, alla violenza, alla ripetitività di questi gesti criminali, ammazzamenti e così via, a considerare che in definitiva il controllo del territorio, lì lo Stato è di nuovo la camorra, come non sembrava anni fa? Ecco, le faccio questa domanda, che è un po' brutale, perché è un'autocritica per tutti i pezzi dello Stato, però mi risponde tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:50 per i 37 secondi. La vicenda da cui traiamo spunto è quella di un parrucchiere nel centro di Napoli, Piazza Eceomo, quindi tra Forcella e quartieri spagnoli. Denuncia al pizzo questo agosto, settembre, consente l'arresto quindi delle forze dell'ordine di chi glielo chiedeva. Da allora vive sotto tutela e protezione, ma i suoi clienti sono scesi della metà. Eravamo d'accordo con lui che intervenisse, evidentemente ha preso un po' di paura. Abbiamo con noi l'assessore Enrico Panini al lavoro, all'attività produttiva del Comune di Napoli, e la mia domanda è: ma non è che di fronte a questa recrudescenza che è in corso da un paio d'anni, diciamoci le cose come stanno, c'è anche il rischio che una parte della Napoli più giovane, eccetera, oltre che per i pochi soldi, il poco welfare, poca scuola, creda che in realtà la battaglia si sia di nuovo insomma, sul punto di essere vinta di fatto tutti i giorni dalla camorra? Guardi, io non ho un'evidenza di delle cose di cui lei, sulle cose quali lei mi ha posto la sua domanda, nel senso che non ne ho nei colloqui, nei fatti, nel sentito dire. Forse andrebbe rivolta a chi magari ha un osservatorio più addentro alle questioni di quello che posso avere io. Io devo dirle, senza nessuna demagogia o senza nessuna propaganda, ci mancherebbe, ho l'impressione che assistiamo ad un fenomeno inverso, cioè io vedo una generazione di giovani che da un lato reagisce, dall'altro, devo dirle, sta diventando insofferente per i troppi silenzi e i troppi ritardi, quindi da questo punto di vista leggo un atteggiamento positivo. La manifestazione che abbiamo fatto 2 sabati fa erano prevalentemente giovani, un segnale straordinario, ma alla sanità, al quartiere sanità è stato in questo modo, così come in altre zone della città di Napoli che si sono mobilitate. Il tema diventa, diciamo, prosciugare il bacino nel quale la criminalità organizzata si annida e cresce. E guardi, non c'è solo il pizzo ordinario, ma ci sono fenomeni che rientrano dentro il mondo, che portano all'usura, le persone condannate all'usura, che sono, andrebbero davvero indagati, ma sui quali occorre intervenire. Le faccio 2 esempi. Sì. Primo, il fenomeno del caro affitti. Noi abbiamo negozi che o chiudono o vanno in fortissima difficoltà perché c'è un mercato che inversamente è proporzionale nell'aumento dell'affitto richiesto all'andamento effettivo del mercato. Su questo abbiamo chiesto un intervento al prefetto di costituire un tavolo con tutti gli interessi per trovare delle soluzioni, perché fa male a una città la vetrina che si chiude o la vetrina che sta aperta e magari dietro il titolare c'è un soggetto non visibile ma che appartiene alla criminalità organizzata. Una norma nazionale non guasterebbe. L'altro fenomeno è quello delle ludopatie, che non va sottovalutato, perché noi abbiamo persone di tutte le età, di tutti i ceti sociali, che entrano dentro ad una situazione di veri e propri drammi sociali, personali e familiari. Insomma, 2 spaccati, scientificamente questi sì, dimostrabili, che danno le dimensioni di un fenomeno, l'usura, particolarmente certo. rilevante. E che naturalmente è uno dei canali ordinari e non straordinari attraverso cui le attività criminali sono assolutamente dentro l'economia e anzi esercitano, corrono il rischio di apparire come coloro che esercitano la funzione di sostegno al posto poi dello Stato. Questo poi è il punto vero, drammaticamente, perché chi si trova con l'acqua alla gola a quel punto accetta certo. pagare tassi tale pur di avere una somma con cui andare avanti. Questa è la certo, per questa ragione, per esempio, con altri soggetti, con altri comuni, noi stiamo chiedendo una legge sull'usura, perché le norme che ci sono importanti vanno meglio puntualizzate, non per amor di legge così, ma perché il fenomeno è davvero devastante e in crescita in tutta Italia. Noi siamo intervenuti come comune rispetto a questo fenomeno, da un lato dando anche la solidarietà al signor Salvatore, è stato ricevuto più volte dal sindaco come testimonianza certo. militante, ma guardi, pur essendo un comune che ha le difficoltà economiche note ai napoletani e note a lei, attento certo. osservatore, abbiamo deciso che laddove la denuncia di un fenomeno di usura porti alla condanna in primo grado del soggetto denunciato, noi abboniamo tutte le tasse comunali per allora, un periodo lungo di tempo. Questo mi pare un ottimo gesto, chiedere ai comuni, soprattutto a quelli in enorme difficoltà come Napoli, di poter fare di più, ovviamente non si può. Qui il problema sarebbe la disponibilità per le tutele immediate gestite dalla prefettura e in questo caso dal commissario straordinario per iniziative anti-racket, però è un esempio di come si può fare. Io sono convinto che i gesti come quelli di Salvatore Castelluccio a Napoli siano ancora troppo l'eccezione, perché conoscendo un po' la realtà lì, le pretese sono pervasive, sono a ogni angolo e non riguardano solo Napoli, riguardano ancora un'area estesissima del nostro paese, purtroppo. E naturalmente i comuni non è che possono rispondere a questo punto al problema dei clienti che diminuiscono e alla tutela personale di Salvatore Castelluccio e della sua famiglia, però il problema è che secondo me dobbiamo tornare a occuparci di queste cose invece che solo dei problemi mondiali. Sì, ma anche quelli di casa nostra innanzitutto. Lo sentiamo come la pensano, io ringrazio l'assessore Panini, sentiamo come la pensa Pasquale che ci chiama da Vibo Valentia. Prego Pasquale. Sì, buonasera signor Giannini. Sì. Guarda, io mi scuso se non mi riesco a far capire, cerco di essere chiaro. Io ho ascoltato la vicenda del signore dei quartieri spagnoli a Napoli, no, ma anche qua in Calabria, insomma, non so se ti descrivo la situazione, insomma, certo. Però nella mia zona, diciamo, no, ci sta un'azienda che produce salame, che io, scusami la reticenza, no? No, certo. Uno che produce salame, quell'azienda là ha denunciato il racket, c'è un'azienda a 200 metri che non ha denunciato il racket. E gli effetti sulle due aziende quali sono? Che una ha fallito, ha chiuso, quella che ha denunciato, quello che è a 200 metri, io immagino che lo pagherà senz'altro, cioè nei quartieri spagnoli non penso che solo certo. Pasquale, mi sa che quello di cui stai parlando è esattamente la radice del problema di cui ci stiamo occupando oggi. Ringrazio anche te, mi scuso con Manuel che non facciamo il tempo di andare in onda, vi do appuntamento domani alle 8:15, torneremo a parlare anche di Sud proprio domani alle 8:15 con Alessandro Milan, attenti a noi due.